Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno. Oggi una puntata dedicata all'osservazione. Parliamo dei gesti che a volte dicono più di tante parole, il famoso linguaggio non verbale. Meglio conoscerlo per evitare sorprese o, perché no, per non scoprirsi troppo. E come si conviene? Iniziamo da una bella stretta di mano. Stretta di mano è fondamentale, il suo biglietto da visita, stia a vedere. Stretta di mano rapida, decisa, sicura, è sintomo di sicurezza e autostima. Ma se non la sciolgo per tempo, diventa una stretta di mano infinita, sintomo di invadenza, capisce quello che intendo? Se io non imparo a stringere la mano, quello mi licenzia. Silvano, non è difficile, Tom Vail dice che la stretta di mano è il gioco di squadra che si fa rituale. Cinque dita si concentrano contemporaneamente intorno ad uno stesso obiettivo come una squadra e incontrano un'altra squadra di altre cinque dita. Avanti, stringimi la mano come farebbe Tom Vail. Mano tesa verso il futuro e sorriso pieno di ottimismo. Non lo ascoltare, informale, disinvolto e figo. Iniziamo da qui, dalla stretta di mano. Ci sono tanti aggettivi per descriverlo: energica, molle, sgusciante, a sandwich. Ogni stretta di mano diventa un'esperienza, può diventare, vorrei che diventasse per noi un'esperienza da cui trarre un'impressione anche in un primo incontro. Buongiorno professor Giorgio Maria Bressa, bentornato. Buongiorno. Psicobiologo del comportamento umano. Una bella stretta di mano anche a lei, allora. grazie. Che tipo è? Beh, io mi immagino la sua stretta di mano una stretta bella di quelle energiche, vigorose, per dire sono qui. Com'è la sua? Sì, dipende dalle persone, a quelle a cui voglio inviare un messaggio un pochino così è una strettina un po' vicidotta, un po' umida, mentalmente umida intendo, e poi a crescere eventualmente con mano più forte, più stretta, più lunga, guardando negli occhi, non guardando negli occhi, eccetera, eccetera. C'è tutto un linguaggio della stretta di mano, ma non solo, perché oggi non ci fermeremo solo alle mani, ma anche è importante lo sguardo, la bocca e anche tutto il corpo, perché con il viso noi magari riusciamo a ingannare il nostro interlocutore, con la stretta di mano, come ci suggeriva il professor Bressa, che è un po' un volpone in queste cose, professore, possiamo comunicare se quella persona ci piace. Ci sono persone che a me imbarazzano molto, che quando ti stringono la mano non te la mollano più e ti guardano fisso negli occhi. Ora, al primo incontro io lo trovo molto imbarazzante. Scrivetemi non solo le strette di mano, ma quali sono i gesti che trovate negli altri, gli atteggiamenti che vi fanno entrare subito in sintonia, empatia, come dicono gli addetti ai lavori, quelli che vi convincono poco e che dicono ma mi sembra un po' viscidino, quelli che proprio vi danno fastidio e sono spesso quelle delle persone che, con cui viviamo. E mi sta osservando l'ospite che ho in studio con me e quindi si sarà già fatto un'idea di che cosa, come vivo in questo momento questa puntata, il dottor Francesco Padrini, che è psicoterapeuta ed esperto proprio in linguaggio del corpo, autore tra l'altro di un libro edito dalla De Vecchi, Linguaggio segreto del corpo. Che idea si è fatto di me? Oddio, non ci pensavo più che lei mi stava osservando. Le dirò che mi sorprende la sua energia e il suo dinamismo, e quindi è indubbio che una stretta di mano con lei può essere una stretta di mano molto dinamica, energica, col tempo giusto, non prolungata, ma che dà una sensazione di come in effetti lei è. Dica che non è mio parente, mio cugino. No, noi non ci conosciamo. Per cui tutto vero. Tutto almeno assolutamente vero, perché vede, una stretta di mano, io bioenergeticamente diciamo, deve avere delle sue qualità particolari, soprattutto nell'ambito lavorativo, della relazione così sociale. Deve, per avere una buona stretta di mano, una buona sensazione di tutta la persona, occorre che la persona, quando stringe la mano, si possa appoggiare realmente sulle gambe, sentendo con i piedi il terreno. Quindi se noi proviamo a effettuare una stretta di mano con le ginocchia leggermente flesse, con i piedi che sentono il terreno, io potrò effettuare una stretta di mano molto energica, ma nello stesso tempo non invasiva e non troppo soft. Una stretta di mano che è come una pulsazione, che è un messaggio di energia e di conoscenza dell'altro. Silvano, stasera c'è la conferenza su amministrazione e fusione. In qualità di contabile lei dovrebbe essere presente. Sì, è che stasera non posso. Non può? No, perché devo accompagnare mia mamma a prendere delle misure. Sta mentendo? Come? Sta mentendo, è molto chiaro. La posizione del corpo, i movimenti delle mani, tutto indica inequivocabilmente che lei sta mentendo. Tentativo maldestro. Purtroppo per lei la comunicazione non verbale parla chiaro. Bita, immagino che lei sappia cos'è la comunicazione non verbale. Certo. Davvero? Giuro. Sta mentendo anche lei? La comunicazione non verbale. No, stavolta è stato più facile. Ha le dita incrociate. Professor Bressa, lei che è psicobiologo del comportamento umano, ci racconta come mai noi tante volte tradiamo quello che stiamo dicendo proprio con un atteggiamento del corpo, una chiusura delle braccia, uno sguardo che sfugge, una postura un po' in contraddizione con quello che stiamo affermando? Come mai non siamo in sintonia? Non siamo in sintonia perché indiscutibilmente sono molti gli studi che lo confermano, la nostra mente è in ritardo molto spesso di circa un millisecondo rispetto ai movimenti che facciamo. In altre parole, se decidiamo di prendere un oggetto, il nostro corpo si muove un millisecondo prima di quanto la nostra mente abbia realizzato i movimenti necessari per prendere quell'oggetto. Allora, in una situazione di rapporto tra persone dove la percezione dell'imbarazzo, l'idea di dover o di poter mentire o dire una verità parziale, la difficoltà che si vive emozionalmente nel rapporto con quella persona, viene percepita un attimo dopo che il nostro corpo ha manifestato disinteresse, disattenzione, fino a voglia di andarsene, tentativo di muoversi. Quindi arriviamo a correggere i movimenti del corpo un pochino dopo che essi si sono manifestati. Lo giudicherei, proprio perché gli studi a questo riguardo sono estremamente composti e molto corretti, un ipotetico strumento veramente di siero della verità, di lie detector, l'osservazione di come possano essere divisi e separati in termini di sincronia i movimenti rispetto al quanto viene verbalmente affermato. Devo dire che i miei ascoltatori sono molto in gambe preparato. Mi stanno arrivando delle istruzioni, i messaggi del corpo che aiutano a stare bene, a dare una bella impressione. Molti puntano sulla stretta di mano, moltissimi puntano sullo sguardo, che deve puntare dritto, accarezzare ma non essere invadente. Ma io voglio sentire anche una voce. Francesca da Oristano, buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Dove sta tenendo adesso le mani? Sta gesticolando? Una al telefono, immagino, e l'altra? Una al telefono e l'altra poggiata su una gamba, poggiata comodamente su una poltrona, perché mi rilassa sempre ascoltarvi mentre lavoro sul computer. Senta, io ho questa curiosità, sono diciamo di origini sarde, ma sono qui solamente insomma appoggiata, e c'è uno strano modo di dire ad esempio alle persone più giovani, no? Stringi la mano alla signora, ti presento la signora, sì. Si dice tocca la mano, e in effetti mentre il maschio dà la mano virilmente, nel senso stringe la mano, sì. Le donne usano toccare la mano, cioè poggiano questa mano un pochino moscetta nella mano dell'altra, ma che non è la mano morta, che di solito non si stringe la mano, si tocca la mano, ma anche a livello verbale si dice tocca la mano alla signora. Tocca la mano alla signora, dottor Padrini. Cara signora, sì, c'è tipologia femminile e tipologia. Ci sono delle personalità più tradizionalmente di un femminile educato, remissivo, quieto, che hanno, timore a esprimere la loro componente aggressiva, che peraltro soggiace in tutti noi. Ma ahimè, oggi vediamo dei mascolini aggressivi, dei femminili mascolini aggressivi che stringono la mano in modo imperativo, in modo energico, come gli uomini. Quindi dipende un po' dalla situazione, dal carattere della persona. Quindi questo modo di dire forse indirizza per una femminilità un po' più remissiva tradizionalmente. Francesca, ma se io e lei ci dovessimo stringere la mano? Ah beh, visto anche la mia attività, credo che sarebbe una stretta un po' mascolina, una stretta decisa, breve e decisa, perché guardando negli occhi. Oh, senza... Francesca, grazie, buona stretta di mano. Io ho una buona stretta di mano, mi scrive Sergio, mi piaccio. La presa si conclude con lo scandire il nome, il mio nome e cognome. Non tollero chi dà la punta della mano, le dita intendo. È l'espressione di gente insicura e non avvezza ai rapporti con gli altri. Professor Bressa, lei è d'accordo? Ma parzialmente. Perché in realtà... professore? Lei è un tipo, eh? Perché? È perché in realtà è un atteggiamento che si può imparare. Voglio dire, il nostro cervello è assolutamente in grado, al momento in cui una valutazione, come dire, economica in senso lato, prevale, è assolutamente in grado di imparare a mimare un atteggiamento appunto disinvolto laddove creda che ne valga la pena, ma l'apprenderlo non significa che poi venga definitivamente inserito tra gli schemi corporei abituali, tant'è che in una situazione nella quale non ci sia una preparazione, un apprendimento, potrebbe riuscire fuori un atteggiamento estremamente meno disinvolto. Perché bisogna sentirlo. Lei direbbe, dottor Padrini, per la bioenergetica, sentirlo. Perfetto, ha detto proprio la parola giusta, perché tutti noi molto spesso facciamo delle cose senza sentirle, con la testa, perché dobbiamo, perché ci è stato imposto, perché la regola delle pubbliche relazioni diplomatiche ci impone di ridere o di stringere la mano con qualcuno. Ecco, beh, questo si può, il linguaggio del corpo non mente e si può, oltre che vedere, a volte anche sentire. Quindi per avere una buona stretta di mano occorre guardare negli occhi, avere la voglia di stringere la mano, e questa voglia deve essere vera, non può essere mimata, perché questo può trapelare. Attenzione, perché un ascoltatore mi scrive: ho lavorato per una multinazionale, i candidati all'assunzione venivano scartati se al colloquio stringevano la mano morta. Non facevano la mano morta, stringevano la mano morta, magari un po' sudaticcia, scivolosa. Andiamo da Claudio, vediamo come stringe le mani lui. Ma amici, non fermiamoci solo alla stretta di mano, perché lì sulla stretta di mano è facile un po' darsi una regola, fare bella figura, così un po' come la mimica facciale. Occhio a tutto il resto del corpo, che oggi impareremo ad osservare per averne la, come si dice, consapevolezza. Un esercizio che mi sento che potrebbe farci bene, svoltare un po'. Claudio, buongiorno. Buongiorno. La mia stretta di mano, com'è? Mia stretta di mano è decisa, abbastanza breve, ma quello che trovo che affascina la gente, che quindi rende molto bene alla comunicazione, è il sorriso. Un breve, piccolo sorriso. E ho notato che questo paga moltissimo. Senta Claudio, ma lei, come mi chiede Rino, c'è un atteggiamento diverso, ha una gestualità diversa se davanti a una donna o un uomo? Fa differenza di genere? No, assolutamente no, anzi, direi che allo stesso modo donna, uomo, giovane, anziano... Uguale. Senta Claudio... Adesso che ormai ci siamo stretti la mano, mi dica invece un gesto, un atteggiamento che lei nota nelle persone con cui parla, che incontra, e che la fa un po' sospettare. Saliamo dalla... Guardi, la cosa che mi fa sospettare, ma non sospettare, cioè mi mette sull'attenzione è quando non ti guardano negli occhi, quando stringi la mano a qualcuno e devi allo sguardo. Questa è una cosa che mi dico, ma perché? Come perché? Mai? Perché? No. E forse il dottor Padrini ha una soluzione. Poi professor Bressa, guardi con una domanda di Tommaso che la metterà un po' in difficoltà. Sia pronto. Io mi compiaccio con Claudio, perché nello stringere la mano lui sorride, il sorriso è un gesto di apertura e quindi questa apertura viene condivisa ed è un modo per comunicare se realmente. Se sappiamo sorridere bene, perché a me arrivano anche dei sorrisi talmente fintini che preferirei che stessero seri. No? Quello è un sorriso finto, però il sorriso vero si vede perché tutto il corpo ride, gli occhi brillano, c'è questo contatto e questo è un modo di trasferire energia e comunicazione. Certo, io adesso ho questa domanda da mille punti, la giro al professor Bressa perché è un po' il peperino, ma la giro anche a voi ascoltatori, ascoltatrici, vediamo se troviamo una risposta per Tommaso che ci scrive: professore, ci dica qual è il movimento segreto per capire se piacciamo o no ad una donna. Il fatto che la donna subito lo sa così, professore. Sì, no, perché è una vecchia storia, ma sono molto allenato a questo genere di lei non me la conta giusta, allora. No, le do la bibliografia, quindi senza problemi. Tutti gli studi sull'innamoramento dal punto di vista psicobiologico hanno confermato che le parti del corpo che vengono osservati dalla donna sono diverse da quelle che vengono osservate dall'uomo e che quando l'occhio della donna va su due punti specifici del corpo dell'uomo, questo è un indicatore immediato che, come dire, il cervello ha analizzato, scannerizzato questi particolari che sono quelli che da sempre prevalgono. E le parti sono le spalle e la potenza muscolare espressa dalle braccia. Non è interessante il torace, non è interessante gli occhi, sono tutti secondari, perché ancestralmente, quindi evolutivamente, l'uomo va cercando la larghezza del bacino, che è quella che garantisce il fatto che ci possa essere un parto, e naturalmente le mammelle intese come strumento appunto importante per allevare i figli. Sì. La donna va cercando, quindi, la forza muscolare e l'ampiezza delle spalle. Spalle e forza muscolare, quindi piacciamo subito, non portate i maglioni abbondanti se volete capire se la donna che volete conquistare si lascia conquistare o no. Non infagottatevi, cari maschi. Sì, è perché ci può essere un trucco, ma certamente oggi vediamo come questa struttura fisica stia, come sempre stata anche, ma oggi l'osservazione è più attenta nel vedere come il femminile si struttura più sul piano del lavoro, sul piano, su molti piani, oltre su quello dell'allevamento dei figli, e quindi le spalle di molti femminili tendono a ingrandirsi e il bacino a rimpicciolirsi. Questo i fianchi stretti. In linea con noi, non volevo anticiparmelo perché fino a quando non ce l'avevo in linea ho detto poi magari, e abbiamo Arturo Brachetti. Ciao Arturo. Buongiorno a tutti. Devo spegnere un po' il mio entusiasmo, adesso lo rifaccio. In linea con noi Arturo Brachetti, buongiorno. Non esageriamo. Senti, tu sei l'uomo dai mille volti, tu lavori molto con il volto, con il tuo corpo. E quindi tu sei la persona, secondo me, più indicata per raccontarci quanto è importante avere consapevolezza, perché noi qua vogliamo arrivare, prendere consapevolezza del nostro corpo, che oltre a dare messaggi agli altri, dà anche dei messaggi a noi, insomma, ci parla, dobbiamo ascoltarlo. No, io il corpo, siccome il mio corpo è la mia macchina che mi fa vincere le corse, in fondo, lo devo mantenere bene. Ed è anche una bella angoscia, devo dire, perché i miei 65 kg sono quelli che mi fanno guadagnare, e non solo a me, la mia famiglia, il mio fratello e quelli che lavorano con me. A volte mi dico, cavolo, ma se qui mi spacco la gamba, qui c'è 40 persone che da domani mi guardano sorridendo dicendo, quando è che ritorno a lavorare? Certo, e quindi no, spesso vado veramente, ascolto il corpo, nel senso che io forse sono anche un pochino ipocondriaco e parto sempre un po' dal peggio, gruppo, c'è un pochino di mangiare al ginocchio, oh il ginocchio mi deve fare il menisco, ora vado a fare le debite, i debiti esami, poi mi dicono no, guarda c'è solo da fare, ultimamente per esempio i menischi che ho già fatto tutte e due mi hanno detto metti una soletta nelle scarpe speciale, a Parigi mi hanno fatto una soletta speciale, cammini meglio e non c'è da fare il menisco, per dire, ma il corpo uno lo deve ascoltare, ma deve soprattutto farci attenzione, perché io vedo intorno a me parecchi amici della mia età che sono già tutti poveretti, vecchietti, perché a 53 anni, sì, lo so, tutti mi dicono come i forti bene, perché io ci sto dietro a oliare la sai quella che si dice la manutenzione. La manutenzione, però vedo quelli della mia età che insomma non ci pensano mai al corpo. Ma cos'hai? Senti, ma tu sai che cosa devi dire? Sentite essere benessere ogni giorno alle 11, così fate un po' di manutenzione, prendete un po' di carica, di ottimismo. Io volevo chiederti, Arturo, noi, dato che tu vivi un po' in giro per il mondo, ma vivi anche... Sono stato 2 mesi a Parigi proprio adesso, ma noi italiani che gesticoliamo molto, ci aiutiamo molto. Questo gesticolare nostro lo ritrovi anche in giro per il mondo? No, siamo solo noi. Mi rendo conto, per esempio, quando faccio l'intervista alla televisione francese o inglese, mi dicono dobbiamo allargarti il campo, me lo dicono proprio, perché tu le mani le muovi, non stanno nell'inquadratura che loro fanno di solito. Sì, gesticoliamo molto, ma è piacevole, nel senso, per noi è un'abitudine, quasi non ce ne accorgiamo, per gli altri fa folcloristico. E poi il nostro corpo ce l'hai, l'hai trovato su internet quei pannelli con le traduzioni del linguaggio del nostro corpo, dall'inglese, cioè dall'italiano gesticolato all'inglese, sono molto divertenti. Ci sono almeno 40 figure che nessuno conosce. Allora, adesso noi dobbiamo andare a sentire i mercati. Voi continuate a scriverci. Mercati, meteo e poi restate qua. Essere e benessere. Senti Arturo, volevo chiederti, tu che dai molta hai percezione del tuo corpo e al gesto, il gesto anche lo studi, no? Per portarlo, per trasformarti, quali sono i gesti, gli atteggiamenti che noti nel tuo interlocutore che ti fanno entrare in empatia o te ne fanno un po' prendere le distanze? Ma ce ne sono tanti, credo che ormai a livello inconscio ne filtro tantissimi, però io penso che in maniera filosofica ognuno di noi ha una certa elettricità, lo semplificando, quindi una persona va a 12 volt, una persona va a 220, una persona va a 125, senza nulla togliere alla generosità, bontà e bravura della persona. Quando uno riesce a capire che l'altra persona va a quel livello e riesce a metterselo sullo stesso lunghezza d'onda, è fatta. Ed è purtroppo anche l'arma più potente dei seduttori. Arturo, un abbraccio, grazie. Un abbraccio a tutti, ciao. Non esistono parole più chiare del linguaggio del corpo una volta che si è imparato a leggerlo. Alexander Lowen. Professor Bressa, ma lei mi ha scatenato qua un piccolo terremotino, perché a parte che ci sono molti ascoltatori, le leggerò, che chiedono allora conferme su atteggiamenti, risposte che hanno ricevuto al primo incontro, e poi però mi scrive Paolo da Brescia: aiuto, ho le spalle piccole, pochi muscoli sulle braccia, allora non ho speranze. Non è così, vero professor Bressa? No. Cioè, quello che colpisce deve essere il rapporto che si crea, intendo dire che per una persona più minuta, per una persona più piccola di statura, un tipo di spalle che non sono da culturista, ma che sono comunque superiori alle proprie, è comunque una garanzia di affidabilità. È straordinario. È così. Molti dei miei ascoltatori mi dicono: allora come faccio? Io sono magro, oppure ho le spalle curve, e allora, ma si trova sempre l'anima gemella, e vediamo se Luiz sta per trovarla, perché ci scrive: Ho appena conosciuto una ragazza, alla nostra prima stretta di mano, lei, stia attento dottor Padrini, mi ha stretto energicamente la mano, cercando di tirare il corpo verso il suo, con l'altra mano sulla spalla per il bacio sulla guancia. Ta ta ta ta. Può essere un segno che io le piaccio? Ma certamente sì, può essere. Oppure, oppure può essere che lei voglia qualcosa di preciso, assolutamente, in modo aggressivo da questa persona. Cioè lo sta portando nel suo spazio intimo, che è lo spazio molto vicino, tirandolo verso di sé. E in questo modo bisogna che lui possa reagire in un modo altrettanto tonico, altrimenti lui ha la peggio. È la postura volontaria, cioè io comunico qualcosa di me volontariamente attraverso il corpo. C'è poi la postura involontaria, che secondo me è anche più interessante, e che serve a capire le reali intenzioni dell'altro nei miei confronti a sua insaputa. Dice Vaslavic, io parlo a lui, che mi ascolta apparentemente benevolo, ma con le braccia conserte, pare sia sintomo di diffidenza, chiusura, sospetto. Beh, così è così. Adesso, come mi scriveva un ascoltatore, non è che se uno è positivo ha sempre le spalle belle tese, aperte, non ha mai le braccia conserte. Insomma, bisogna, dottor Padrini, entrare un po' in sintonia. Poi non è che se parliamo con uno che ha le braccia conserte vuol dire che è chiuso. Abbiamo preso proprio questo spezzone per... Sì, non si può arricchire così un po', perché vedere, sennò estremizzare la situazione. Certamente è un messaggio che deve coincidere con quello verbale, quello del corpo, perché nel momento in cui noi diciamo, come un politico dice, bisogna fare la pace e esprime una modalità di guerra, certamente quello che occorre poter tenere presente è il messaggio non verbale, che è sempre più veritiero, ahimè. Emiliano, dalla provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno. No, dicevo una cosa, io in generale, diciamo, le conquiste che ho fatto, le donne che ho conosciuto... Ah, qua siamo proprio sulla conquista femminile, aspetti Emiliano che qua mi piace molto, allora, conquista femminile di Emiliano. Allora, in realtà quando la prima stretta di mano ho sempre avuto l'impressione che così che sia scioglievole, è una sgrammaticatura ma secondo voluta. Me è abbastanza idea. Non lo so, hai l'impressione, gli dai la mano praticamente e senti che la perdi, cioè quasi che ti viene da sorreggerla perché magari cade. Ho avuto questa impressione. A me non piacciono in generale le donne dominanti, diciamo, piacciono caratteri abbastanza remissivi. Però ecco, però... forse magari altre strette di mano che potevano essere interessate, forse non l'ho capite inconsciamente, mentre quelle lì mi arrivavano abbastanza dirette. Ma mi aprite un mondo, professor Bressa. Ma è così. Adesso io non so, adesso se dietro a una stretta di mano uno interpreta tutte queste cose, io bacio subito. Come diceva giustamente il dottor Pedrini prima, il fatto che ci siano delle trasformazioni, dei lavori in corso di femminilizzazione maschile, di mascherizzazione femminile, crea degli ibridi su cui bisogna aumentare le capacità di verifica e di comprensione, perché spesso dietro appunto manifestazioni che teoricamente dovrebbero essere spontanee si cela molto di più di quello che può essere l'apparenza, che viene cambiata, modificata, adattata a seconda delle situazioni. Però il linguaggio del corpo, mi scrive Federica da Gallarate, dice molto anche delle nostre intime emozioni, anche di pensieri, paure. Nei corsi di difesa per la sicurezza e difesa personale si insegnano schiena dritta, spalle non ad arco e capo dritto e sguardo deciso. Certo. Ecco, noi non però, dottor Padrini, spesso non ci rendiamo conto di come... ci poniamo, ci atteggiamo, no, non parlo della nostra postura, che sarebbe il modo corretto per definirla, no? Per visualizzarla, ma proprio come stiamo nell'ambiente riflette anche delle tipologie. Certo, in funzione del nostro carattere condiziona le nostre modalità, le nostre strutture fisiche e anche i nostri gesti. Per esempio noi vediamo una tipologia che tendenzialmente, se noi proviamo a stare giù, l'ascoltatore, uno che chi ci sta sentendo prova a andare giù con le spalle, giù, giù, scendere giù, vedrà che questa modalità induce delle pensieri, non ce la farò, come pesante la vita, eccetera. Viceversa, se l'ascoltatore per esempio prova a stare su, erigersi senza riferimenti politici particolari e molto in su con una buona ispirazione, cambia il modo di pensare. Ce la farò, forse queste è possibile. Queste sembrano, dottor Padrini, delle cose un po' banali, no? In realtà dietro queste cose che tutti sappiamo, tutti ci diciamo, ci sono degli studi. E perché? Ci sono degli studi che dicono che proprio il nostro atteggiamento, il modo in cui atteggiamo il nostro corpo influenza la nostra mente, che vi piaccia o no, questo è vero. Per cui se dovete affrontare, così partiamo con un esercizio, qualcosa per cui vi sentite un po' insicuri, dovete andare dal vostro capo, non andate proprio fieri come un leone, perché sennò vi cazzia. Troppo gonfiati no, la giusta però, misura. Ecco, prendiamo un buon respiro, cioè è importante, ci sono delle tecniche bioenergetiche, per esempio io utilizzo con i miei pazienti, dove ben precise, che tutti gli ascoltatori possono provare anche subito a fare, e che sono quelli proprio di entrare nel mondo, oltre che del capire, del sentire, e questo mondo lo riscopriamo col silenzio e con la respirazione. Quindi attivare per esempio un programma di 6 atti respiratori che dovrebbero contenersi nel tempo di un minuto, questo ci porta a effettuare proprio una inspirazione ed espirazione lenta. Allora, quando noi respiriamo, noi sentiamo, noi non respiriamo perché abbiamo paura di sentire il dolore, il conflitto, la paura, le cose che ci bloccano. Quindi oggi compito: un minuto di oggi pomeriggio lo troviamo, proviamo a cronometrarlo e a fare sette atti respiratori. E questo 7 atti respiratori in un minuto vuol dire che abbiamo preso il tempo giusto per poterci sentire, ascoltarci. Possiamo fare anche l'esercizio inverso, cioè prendiamo l'orologio, un minuto, vediamo, contiamo quanto respiriamo, e quindi noi, se vediamo che respiriamo troppo, professor Bressa, vuol dire che qualche cosa ci disturba, ci stressa, ci blocca. Scusate, ero distratto che stavo facendo i 7 atti respiratori. Sì. Stava facendo i 7 atti respiratori, è già guarito il professor Bressa. Ero concentrato su quello. Sì, no, certo, ma respirare ad esempio è una delle funzioni che spessissimo nel disturbi d'ansia viene immediatamente lamentata come difettosa, e la gente racconta, ad esempio, mi sono accorto che respiravo, cioè un atto automatico che è sotto controllo del sistema nervoso autonomo, passa in livello di coscienza, e quindi l'interferire poi sugli atti del respiro naturalmente ne modifica l'autonomia, ne modifica il fatto che siano spontanei, e quindi è una interferenza che spesso avviene proprio in relazione a momenti di tensione, momenti di ansia. Allora, noi abbiamo aperto la puntata stringendoci le mani, e adesso con le mani noi proviamo ad autosciazzarci, perché ci sono degli esercizi che il professor Fulvio Palombini, reumatologo, docente in fisioterapia all'Università della Sapienza di Roma, Ospedale Sant'Andrea di Roma ed esperto di shiatsu, ci può insegnare per un minutino. Buongiorno professor Palombini. Buongiorno a tutti, ben risentiti. Le mani ci aiutano, gesticoliamo, ma con le mani possiamo anche avere... fare molti esercizi di rilassamento. Regaliamocene uno. Allora, seduti comodi, un esercizio che dovrebbero fare tutti gli operatori che lavorano con le mani prima di fare un trattamento per rilassarsi, quindi va bene anche a persone un po' agitate, sì. Seduti comodi con la schiena appoggiata, si cerca di aprire fortemente le mani, aprite forte le mani, fate un grande respiro, un'ispirazione, e poi chiudendo le mani espirate fortemente, lo facciamo 5-6 volte di seguito con tutte e due le mani. Poi prendiamo una mano, il pollice destro, e inseriamo il pollice destro tra quelle due piccole eminenze, l'eminenza tenar e l'ipotenar, quelle che sono proprio alla base del gomito, del polso, e facciamo delle forti pressioni proprio lì, forti, contando fino a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E poi rilassiamo, lo facciamo 4-5 volte di seguito e poi passiamo all'altra mano. Grazie professor Palombini, grazie anche ai miei ospiti. Adesso andiamo a sentire cosa succede su strade e autostrade. Essere e benessere. Come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara. Tu li porti come l'onda in mezzo al mare. E voi? voi come li portate i capelli, anche se non siete né biondi né belli, e come li curate adesso che siete in vacanza o durante l'estate, e in che condizioni vi augurate di portarli indietro a casa dopo le vacanze? Ne parliamo oggi con la dottoressa Riccarda Serri, una dermatologa per amica, o meglio per la pelle, un'amica per la pelle. Grazie dottoressa Serri, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora dottoressa Serri, il sole regala degli splendidi riflessi ai nostri capelli, penso ai biondi, alle bionde, ma anche a noi brunette, devo dire che dà quei piacevoli riflessi ramati che insomma un po' aiutano. Però in realtà quello che noi percepiamo come un regalo del sole in effetti è un po' uno stress per i nostri capelli, è vero? Beh, certamente il sole ha un effetto disseccante sul fusto. Dividiamo il capello in due. Sì, da un lato spacchiamo il capello in quattro, insomma. Spacchiamolo in quattro. Oh. Quello che noi vediamo, quello che è fuori, quello che la gente in genere chiama le lunghezze, è il fusto del capello. Il fusto è fatto da cellule a tegolina, tutte belle, disposte, imbricate bene tra di loro. Meglio stanno queste tegoline, più in ordine sono, più il capello è lucido e luminoso. Sono però cellule prive di nucleo. Quindi che cosa vuol dire? Che il sole non può danneggiare il nucleo di queste cellule, le parti vitali di queste cellule, perché non c'è. Per cui più di tanti danni non li può fare. Può fare certamente dei danni di tipo estetico, andando un po' a sgretolare quell'imbricatura di tegoline, quindi sì, rendendo i capelli meno lucidi e luminosi. Bisogna aiutarli, magari quando si va al sole, con oli per capelli che tengano le tegoline tutte in ordine tra di loro. Insomma, e che poi, non li scompigli. Che non li scompigli. E poi abbiamo il bulbo, il cosiddetto centro vitale del capello, che è situato nel follicolo pilifero, all'interno della cute del cuoio capelluto, e lì ci sono tutte le cellule vitali, quelle che producono la cheratina, che producono proprio il capello, e sono le cellule col nucleo, sono le cellule anche ricche di cellule staminali, perché si è scoperto che è una zona ricchissima di cellule staminali adulte, e lì se il raggio solare arriva può effettivamente danneggiare. Però i capelli hanno anche una ottima funzione protettiva dal sole. Per chi ce li ha. Per chi ce li ha, e in effetti, quando ci si dice ma perché servono i capelli nascono proprio come protezione dal sole e dalle intemperie. Anche i peli. Anche i peli hanno più una funzione vestigiale, certamente i peli sessuali hanno una funzione vestigiale, una funzione di richiamo sessuale, quelli, i peli pubici e i peli ascellari, mentre i peli del corpo hanno una funzione anche protettiva, certamente protettiva, non solo dal sole, se noi pensiamo all'uomo preistorico. Però se lei pensa, che fortuna nascere capello piuttosto che pelo? Perché mentre i capelli tutti vorremmo averli, tutti vogliamo curarli, averne tanti, belli, magari lunghi e fluenti, i peli tendiamo proprio a eliminarli, almeno nella nostra, almeno in Occidente, sì, no? E oggi, ma anche in Oriente moltissimo, e anche in Nord Africa, cioè proprio solamente in certe zone del Nord Europa non hanno questo odio, sì, per il pelo. Che, però hanno che i peli biondi, avendo i peli biondi sulle hanno gambe. I peli biondi ma folti. Certamente far cadere i peli e far crescere i capelli è proprio uno degli aims dei dermatologi di oggi, ecco. Sì, perché in effetti invece tante persone notano che quando diventano progressivamente, no, sempre con meno capelli, e però i peli sono lì al loro posto, belli e resistenti. Anche gli uomini, sempre più frequentemente i giovani si depilano. Proprio ultimamente sto vedendo parecchi ragazzi che fanno la ceretta alla schiena, poi vengono da me disperati perché hanno le follicoliti, quindi infiammazioni follicolari post un insulto dato dalla ceretta. Senti, noi oggi parliamo specificatamente di capelli, ma dato che lei mi ha citato questi poveri ragazzi che magari per piacere alle morose si sottopongono a queste torture, perché deve essere una tortura. Sì, la, è per un ragazzo una tortura. Ma noi almeno di peli sulla schiena non ne abbiamo, dottoressa. Mi lasci fare una parentesi. È che gli uomini non sono avvezzi a sottoporsi alle torture a cui si sottopongono le donne per rimanere carine e per piacersi. Sì. Per cui gli uomini la mettono giù molto dura. Certo. Molto dura. Però certamente quando un ragazzo ha peli sulla schiena e non ha mai fatto una ceretta, ecco che lo strappo può risultare ancora più doloroso. Però non ci sono vie di mezzo. Ci sono delle vie di mezzo, perché si possono fare delle depilazioni, per esempio con rasoio anche elettrico, con luce pulsata andando in istituto, e magari si possono ammorbidire i peli applicando delle sostanze leggermente che sciolgono la cheratina prima di fare le cerette. Gli abbiamo dato tanti suggerimenti. A queste schiene pelose. Senta, dottoressa Serri, ma se il danno è già stato fatto e quindi la schiena è piena di pustoline, insomma, c'è la follicolite, che cosa si può fare? Ma io in genere consiglio l'applicazione della buona, vecchia, semplicissima pasta all'acqua, che è una pasta che prepara il farmacista, è un galenico, che si mette sulla schiena, ha un'azione antinfiammatoria, antisettica, non è fotosensibilizzante e è molto utile. La prepara proprio il farmacista, ed è a base di ossido di zinco, glicerina, talco veneto e acqua. Insomma, un po' la pasta per i culetti dei bambini. Bravissima, no? Bravissima. Che è un toccasana, diciamo, un must, secondo me, nei mesi estivi. Per tornare invece ai nostri capelli. Ecco che la protezione con olio, con oli vegetali, è molto utile durante la giornata. Ma se anche una ragazza non ha voglia di tenere l'olio in testa tutto il giorno, l'applicazione di un olio vegetale, olio di vinaccioli, la cera jojoba, una mezz'ora prima del lavaggio può aiutare e avere un effetto restitutivo sul fusto del capello. Per invece proteggere il cuoio capelluto, penso alle persone che hanno pochi capelli, magari si mettono il cappello, ma anche alle persone che non hanno questi capelli così folti, queste belle testone di capelli, a cui magari si vede già anche un po' di cuoio capelluto, non perché abbiano un diradamento patologico, ma proprio perché hanno i capelli fini. Come si possono proteggere dai raggi del sole? La cosa migliore è il cappellino, però ci sono anche dei solari in spray fatti apposta per il cuoio capelluto e per i capelli, e che possono essere molto utili, soprattutto se si è in barca e se si è in zone dove il sole picchia parecchio certo. Forte. Quindi si mettono questi spray, sono come degli spray. Sono degli spray che non appesantiscono troppo, perché mettere una crema sul cuoio capelluto direi che è infattibile, certo. Si può fare alla carta. Ma in pratica poi chi segue questo suggerimento poi odia il suggeritore, perché è fastidio. Noi non vogliamo farci odiare. Senta, dottoressa, per chi va al mare, ma per chi soprattutto frequenta la piscina, cloro e capelli, a parte che in molte piscine è obbligatorio portare la cuffia, però il cloro sui capelli qualche effetto lo fa oppure stiamo tranquilli? No, il cloro è particolarmente dannoso per pelle e capelli, addirittura i capelli biondi virano verso il verde con il cloro, per cui bisogna stare molto attenti. E effettivamente Skineco sta promuovendo un'azione tale per cui a disinfettare le piscine ci siano dei nuovi derivati dall'acqua ossigenata che sono molto meno tossici rispetto al cloro. Però per proteggere ma i propri capelli... Ma senta, ma questo è fantastico! Sì, sì. Questa sì. Skineco va forte, io sono molto contenta che a lei sia venuto in mente di creare questa... Beh, ma anche noi medici siamo molto attenti all'ecosistema cutaneo e ambientale, ecco, non ogni tanto sento dire che i medici non sono interessati. Bene, invece non è vero, non è così. Sono sempre di più i medici interessati alla ecologia di quello che entra in contatto con il nostro organismo e con la nostra pelle e anche a quello che succede nell'ambiente. Dottoressa, quindi in attesa che Schinecco vinca la sua battaglia... In attesa che Schinecco, allora bisogna proteggere i capelli sempre con un pochino di olio. Io dico, non bisogna farlo troppo sapere, perché in una piscina non bisogna entrare con oli e creme addosso, anzi ti suggeriscono una doccia, ma magari a casa mettere un pochino di olio sui capelli può aiutare a evitare questo eccessivo danno da cloro. E poi dopo i capelli vanno immediatamente sciacquati e lavati con acqua dolce. Quella è fondamentale. Anche tutti i giorni possiamo fare lo shampoo oppure no? Lo shampoo può tranquillamente essere fatto tutti i giorni. Ecco, sfatiamo questo mito del non lavare troppo spesso i capelli. Noi dobbiamo lavare i capelli secondo necessità, per cui quando si depositano per esempio particelle inquinanti, quando si depositano particelle di ogni tipo, è bene sciacquarle via. Dipende da come si lavano i capelli. Usiamo un po' il buon senso, usiamo la testa, ecco, dai. E usiamo shampoo molto delicati che oggi ci sono. Non laviamo i capelli come se fossero un vecchio straccio, quindi sfregandolo, usando detergenti aggressivi, assolutamente no, ma lavati delicatamente si possono lavare anche frequentemente. Dottoressa Serri, noi ci sentiamo la prossima settimana. Intanto buonissima giornata. Grazie a lei e grazie a tutti voi. E buona giornata a voi che ci avete seguito. Appuntamento domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta.